toros de Sevilla, solo un nome si sente mormorar. Nell'arena quando entra la quadriglia, ha patito soltanto di acclamar. Solo a lui le spada forte ardito, grandissimo Paquito, il gran toreador. Solo a lui che gioca in Mateltón, e viva il gran Paquito, il re dei toreador. Cavaliero della muerte, cavaliero de mi vita, fatti onore alla corrida, ma il destino non affrontar. Ogni cuore di signorita è legato alla tua vita, è per questo che io brindo al tuo fior di gioventù, Paquito lindo. La mia vita sei tu. La mia vita sei tu.